servo tempo fa in una piazza, così pregava Cristo e cede c'è a Cristo lo me padrone me strapazza mi tratta come un cani per la via. Tutto si piglia con la somanazza, la vita di chi è manco de mea, destrugge la Gesù, sta mala razza. Destrugge la Gesù, fallo per me, Cristo per me. E Cristo mi risponde della croce, che forse sospezzate le tue brazza, tu vuoi la giustizia se la pazza, non speri caudo la pazza per te. Se tu sei uomo e non sei testa pazza, metta a profitto sta sentenza mia, dai un chiudato in croce non sarei, s'avesse fatto quanto te guardia, dai un chiudato in croce non sarei. Ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori i denti. Piglia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori i denti.